giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Romanzo criminale. La banda della Magliana. Bande di quartiere, formate da giovani in gran parte senza cultura, senza valori. Violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia, sparsi nella periferia e nell'interland di Roma. Magliana, Trullo, Portuense, Tufello, Corviale, Testaccio, via Chiabrera, Acilia, Ostia. Giovani che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, totonero, prostituzione, sequestri di persone e tanta droga, un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana, criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in Romanzo criminale e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido. C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo. Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti. Tu hai il nome di chi parla? Perché mi avete detto niente? Che presenza vi dà più? Sei troppo innamorato, dice. Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente. Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio, mi misuro col male. Preparami il conto libero. Io esco dal gioco. Non si esce da subito dal gioco, gli aprite. Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata. Ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. E a lui, proprio a lui, spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata che ha agito nel nostro paese. Il controllo del mercato degli stupefacenti, dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80, in mano alla banda della Magliana a Roma, presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato. Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi. Soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo. Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di Romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia, dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. E direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato un ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende. Ma la vicenda della banda della Magliana non può soltanto essere ridotta ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono dei delinquenti come altri. È una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea italiana. Franco Giuseppe Pucci, classe 1947, un fascista convinto, alla carnagione scura, gli amici lo chiamano Er Negro, a Testaccio e Trastevere è conosciuto e rispettato, sarà lui il principale collegamento con la destra eversiva, assassinato nel settembre dell'80. Danilo Abruciati, inizia con furti e rapine, ha rapporti con Cosa Nostra e con gli ambienti del riciclaggio di denaro sporco, frequenta Flavio Carboni e Francesco Pazienza, muore in una sparatoria a Milano nell'82 mentre tenta di uccidere Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Domenico Balducci, per tutti Memmo, legato a Pippo Calò, il cassiere della mafia, ufficialmente è proprietario di un negozio di elettrodomestici, in realtà fa lo strozzino, il cravattaro, come si dice a Roma. Inizia con le rapine anche Maurizio Abatino, nato nel 54, si muove tra la Magliana, il Trullo e il Portuense, dove conosce diversi malavitosi, uomini fidati che entreranno a far parte della banda. Nel giro lo chiamano Crispino per i suoi capelli ricci e neri. Nicolino Selis, classe 52, i primi reati a 14 anni, a metà degli anni 70 è già una figura di spicco della criminalità romana. Basso e pieno di tatuaggi, finisce spesso in carcere, dove diventa amico di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra. Ucciso nell'81, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Enrico De Pedis, trasteverino puro sangue, detto Renatino, è titolare di un incredibile patrimonio personale. Viene ucciso nel 90 e sepolto in una chiesa di Piazza Navona tra nobili e grandi artisti del passato. Una sepoltura prestigiosa per quello che sarà l'ultimo boss della banda. Franco Giuseppucci, Pippo Calò, Danilo Abruciati, Nicolino Sevis, Edoardo Toscano, Maurizio Abatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotalleri, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta, Pernasetti, Ettore Malagnoni. E ancora Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Sparo. La loro storia inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rudere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano intorno al gruppo storico dei Marsiglieri. Gestiranno con tendenze monopolistiche i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona, dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente dall'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale. Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, li chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda, ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della Camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari, e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, prevedendo che la banda della Magliana sia segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi. All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente. E come in una saga antica sarà ucciso dai suoi amici e finirà coinvolto in strane triangolazioni, come conferma Giuseppe De Lutis, per anni consulente della commissione stragi. Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda della Magliana. Giallo e nero, tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Romanzo criminale, La banda della Magliana. Una storia che si muove tra i molti intrighi italiani, in primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi e della Camorra per ritrovare il covo in cui le Brigate Rosse tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978. Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana. Lei è il professor Franco Tricca? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Lontana. Ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, la famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono se la sotto controllo non so niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo: adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. Si primi numeri di cordia sono N5. La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, e nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore. E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli. Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2. Sì. Arriva a tutti. Ah, lei dice che molte persone erano coinvolte in questo regno della. Arrivano a tutti, vedi. Una lunga scia di sangue, di trame che dal rapimento di Aldo Moro porta fino ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si è intromessa in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini. A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro, si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo, racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Selis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge i personaggi della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Pecorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un tassì a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno e il 2 agosto 1980 venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata da Cismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda. Finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito. E come affermato da Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Danilo Bruciati, Nicolino Selis e molti altri gregari, fino al pentimento di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbattini. Migliaia di pagine davanti ai magistrati, Abbattino ha svelato alcuni segreti inconfessabili della banda, i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Il suo arresto in Venezuela viene raccontato da Nicola Cavaliere, questore di Roma, a quei tempi capo della sezione omicidi della squadra mobile di Roma. Un mandato a Caracas personale che conosceva fisicamente il personaggio, con molta pazienza frequentarono alcuni territori, alcune zone frequentate dalla malavita sudamericana fino a che individuarono l'Abbattino. Un paio di giorni di osservazione e una mattina che sembrava che il latitante potesse andare via da questo residence dove era stato localizzato, demmo via all'operazione. Chi ormai era in una fase, diciamo, di abbandono del territorio romano, quindi era, come devo dire, forse anche deluso da molti personaggi su cui lui aveva puntato. Molti suoi amici erano stati uccisi, quindi un programma criminale degli anni Ottanta era crollato. E quindi lui, che si sentiva un leader, sicuramente un capo, non avendo i gregari importanti, decise proprio di abbandonare il territorio. Quindi credo che Abbattino avesse raggiunto il Sud America non tanto per nascondersi, ma proprio per dare un taglio netto alla sua esistenza. Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata negata l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi di quella banda siano passati in altre mani. Facciamo degli esempi. Massimo Carminati, neofascista, killer dell'organizzazione. Nel luglio del 1999 viene arrestato nel caveau del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con quattro carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre 23 forzate, senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 chili di cocaina, documenti riservati. Alcune cassette erano in uso a magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Manlio Vitale sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, Magliana e Garbatella, dal mese di aprile del 98 al marzo del 1999. Sono solo coincidenze, secondo voi? Oppure segnali di una ripresa delle vecchie attività?